Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. La ragazza al telefono si presenta. Mi chiede se è possibile fissare un incontro presso i loro uffici nei giorni successivi. Un appuntamento con il titolare. La casa editrice è una fra le 20 a cui ho mandato il mio lavoro, ha letto il manoscritto ed è interessata a pubblicarlo. Senza contributo economico da parte dell'autore, si affretta a dire l'impiegata. Mi ricordo che mi sono fermato, ci pensavo e non ci credevo. Mi chiamo Emanuele Cislaghi, abito a Milano, vivo a Milano, lavoro in un'agenzia di assicurazioni. Una delle prime cose che abbiamo sottolineato quando abbiamo cominciato a fare questo programma insieme a Tiziano e a tutti gli altri della redazione era: questo programma, quando ci mandate un racconto, non è un concorso per racconti, cioè non è un concorso letterario, non cerchiamo scrittori, cerchiamo semplicemente persone che abbiano voglia di raccontarci un piccolo episodio della loro vita, per mille motivi, persone che fanno mestieri di qualsiasi tipo, che vivono la loro vita e hanno voglia così di aprire un pochettino la porta, tirare fuori un bagliore della loro vita, un pezzo della loro vita, e darmi la possibilità di raccontarlo, e ogni giorno quindi raccontare una storia diversa, ogni giorno raccontare una persona diversa. Grazie a chi lo fa, grazie a chi continua a farlo. Voi siete qui, @radio24.it. È chiaro che arrivano racconti di natura molto diversa tra loro, come vi dico spesso, e di tipologia di scrittura anche molto diversa tra loro. Il racconto che ci ha mandato Emanuele diceva una cosa molto chiara, raccontava quel momento in cui nella tua vita ti arriva una telefonata che ti dice una cosa che tu ti stai aspettando, o meglio non la stai aspettando, l'hai messa lì da una parte e poi cerchi di dimenticartene, perché reggere quella speranza e reggere quell'attesa per tutto il tempo probabilmente è troppo complicato. Allora fai una cosa, la spedisci se la devi spedire, la consegni se la devi consegnare, e poi aspetti, però aspetti cercando di ingannarti, cercando di non aspettarti, e poi quella telefonata arriva. La telefonata che arriva e che è il racconto di oggi riguarda proprio quello, riguarda la storia di una persona che ama scrivere e scrive delle storie, e lo fa non di mestiere, credo che faccia, mi pare faccia altro nella vita, Emanuele, sì, lavora nelle assicurazioni, e però ha questa passione, ha questo amore, ha questo desiderio, e cioè scrivere delle storie. Quello che ho in mano in questo momento non è solo la scaletta della puntata di oggi, ma è proprio il libro che viene fuori, è come l'emanazione diretta del racconto di Emanuele. È un libro con una copertina che credo sia un cielo, no, oddio, mi sa di no, forse una luna. No, cos'è? Un riflesso dell'acqua forse? Vabbè, comunque è una copertina scura, è un cielo. Bonini dice che è un cielo stellato di notte, ma Bonini lo sta guardando di là dal vetro ed è miope, per cui direi che posso avere un'idea, forse più chiara io. 6 diottrie, mi dice Tiziano Bonini. 6 diottrie ti mancano o hai? Ti mancano 6 diottrie. Roba da essere benessere di Nicoletta Carbone. Io fossi Nicoletta ti chiamerei. Margherita Ina dice 10 diottrie le mancano. 9 diottrie ti mancano. C'è una banda di ciechi. Paolino, tu quante diottrie? Paolino Corleoni non lo sa, ma gli mancano abbastanza. Insomma, torniamo a sto libro. Il libro che ho in mano è il libro di Emanuele Cislaghi, che viene pubblicato proprio pochi giorni dopo che lui riceve questa telefonata. Si chiama Ascolta le mie voci. Vi leggo la quarta di copertina. In breve tempo ci si abitua a qualsiasi meraviglia, anche a questo universo di stelle e di oscurità. Forse quindi ha ragione Bonini, quello sulla prima pagina è un cielo di stelle. Di Emanuele Cislaghi invece ci scrive: è nato il 16 settembre del 74 a Milano, dove vive e lavora. Gli piace la musica, il cinema, la letteratura, il nuoto e il tango argentino. Recita in una compagnia teatrale amatoriale. Questo non so se depone a suo favore oppure no, ma noi ce lo prendiamo. Quindi, come dire, se avete in mente di scrivere un libro, se avete un libro nel cassetto, oggi è il giorno per tirarlo fuori. 349 238 6666. Voi siete qui, @radio24.it, ma anche se avete voglia di raccontarmi la trama del vostro libro nel cassetto, 800 24 0024. È pericolosissimo, come dice Tiziano Bonini di là dal vetro, è pericolosissimo, ma siamo pronti ad accogliere qualsiasi storia. Mi raccomando, la trama facciamo che è come un tweet, no, facciamola più facile, che è come un sms. In 140 caratteri mi scrivete la trama del vostro libro nel cassetto, però nel cassetto vuol dire che è già pronto, cioè magari ne avete scritto metà o anche 5 pagine bastano, oppure solo la parte di una trilogia come Elisa che noi ormai abbiamo imparato a conoscere e ad amare anche. Avevo una trilogia fantasy, scrive Elisa, e mi ricordo il primo è uscito, si intitolava Lungo inverno di Sephron, e mi scrive Elisa, è stato un fiasco. Gli altri rimangono nel cassetto, anzi ci ho acceso la stufa e tanti saluti. Questa è Elisa, però Elisa, ricordiamo, è giovanissima, se non mi sbaglio c'ha tipo 21 anni, quindi ha tempo. Silvano, ho scritto un noir, protagonista un ufficiale dei paracadutisti della legione straniera francese con doppia cittadinanza italiana e francese, promettente ma la cui carriera viene stroncata per un'operazione militare andata male. Si è rifatto una vita in Italia dove tutti lo stimano ma dove nessuno sa nulla del suo passato. Verrà coinvolto in una storia complessa dove saprà utilizzare al meglio quanto imparato ai tempi della vita militare. È James Bond, Silvano, cos'è? È più che un noir, un thriller. Ugo, io ho 3 brevi racconti scritti alcuni anni fa, racconti erotici, quindi non ci serve la trama. Marco, una raccolta di poesie, riflessioni, racconti e canti dalla periferia del mondo, scritta in ricordo di tanti amici conosciuti negli anni del volontariato. Ma la trama voglio, ragazzi, voglio la trama, cioè chi è il protagonista, cosa fa, cosa gli succede. Caterina, ho un'idea da anni, ho scritto le prime 5 cartelle ma non so andare avanti. Caterina, sai una cosa, le prime 5 cartelle le sanno scrivere tutti. E andare avanti che è difficile, te lo dice uno che ne ha scritte 3 di cartelle ed è ancora lì. Non mi ricordo chi diceva, non chi ben comincia alla metà dell'opera, ma era il contrario. Qualcuno citava un altro proverbio inesistente, che era se sai fare una cosa, non partire dall'inizio, parti dalla fine, perché di iniziare sono capaci tutti. Rossana, un'autobiografia incompiuta. Ogni tanto la leggo, la rispolvero e la rimetto giù. Se dovessi mai finirla e mai pubblicarla, dovrei dire addio a tante persone. Sinceramente, se ci penso, non sarebbe una cattiva idea. Forse un giorno ne sarò capace sia di finirlo che di dire addio a tanta gente negativa. Certo, scrivere un'autobiografia, cioè, deve averne fatte di cose per scrivere un'autobiografia, no? Cioè, di solito l'autobiografia si scrive a 60 anni, Obama ne aveva di meno di 60, insomma, però è un presidente degli Stati Uniti. O di solito ti scrivono una biografia, che sembra meno presuntuoso. Chiara, io ho il racconto del racconto che non c'è, è un libro di psicologia. No. Allora voglio una storia, una trama, un protagonista. Cosa succede a questo protagonista? Intanto qualcuno mi scrive che oltre al fatto che Emanuele reciti in una compagnia teatrale amatoriale, nemmeno il tango depone a suo favore, ma questi sono quelli invidiosi che semplicemente non sanno muovere 2 piedi, come sottoscritto. Paola, eccolo qua, il romanzo nel cassetto di Paola. L'Astore Giovanni. L'Astore è un rapace, è un uccello, no? È un rapace, è tipo un'aquila, più o meno, tipo un falco. L'Astore Giovanni odia volare di notte, gli piace la gente, è troppo curioso e si sente frustrato nei confronti degli altri rapaci più blasonati e famosi, appunto, infatti L'Astore credevo fosse un nome proprio. Passa molto del suo tempo su un filo della luce troppo sottile per lui e interroga chi passa. Ah, questa è la trama del libro, scusami, non avevo capito, Paola. Un po' leopardiana. E poi ce n'è un altro di libro, Il custode dei ricordi inutili. Però mi piace perché dà più importanza al primo. E poi dice, poi ce n'è un altro. Avete un romanzo nel cassetto? Raccontatemi la trama. 349-238-6666 800-24-0024. Questo non è il romanzo nel cassetto di Emanuele. Questo è il momento in cui ha saputo che da quel cassetto il romanzo l'avrebbe tirato fuori. Mi ricordo quel giorno come se fosse ieri. Sì, lo so che può sembrare una frase fatta. Vi giuro, è così. Da mesi ormai aspettavo una telefonata. Quella telefonata. Poteva arrivare da un sacco di persone diverse. Non sapevo chi ci sarebbe stato all'altro capo del filo. L'importante per me era che il telefono squillasse. E poi, un giorno, un giovedì. Giovedì 14 settembre 2006, il telefono è squillato. Erano le 16:50. Ero appena andato a bere un caffè con dei colleghi in un bar vicino alla zona Bovisa, a Milano. Un bar come tanti, in un giorno come tanti, tutto nella norma, insomma. Un collega ti chiede se ti va di andare a bere un caffè al solito bar, tu gli dici ok, insomma esci e niente di strano. Solo che mentre stavamo tornando in ufficio, giusto 4 passi a piedi, il cellulare è squillato. Anche qui tutto normale, io lavoro per una compagnia di assicurazioni, quindi nulla di strano che mi squilli il cellulare. Può essere un cliente, può essere un funzionario della direzione, un perito in merito a un sinistro, insomma può essere tutto, e invece no. Il libro ho impiegato circa un annetto a scriverlo. Diciamo che ho sempre scritto, fin da piccolo. Fortunatamente questa cosa mi ha portato poi a riuscire a pubblicare qualcosa. Era l'impiegata di una delle case editrici a cui avevo mandato il mio manoscritto, partorito come fosse un figlio, nei 15 mesi precedenti. Scrivevo di sera, nei fine settimana, nei giorni di ferie. Un libro di racconti. 10 racconti raccontati in prima persona che parlano di me, più o meno, di chi sono. La ragazza al telefono si presenta, mi chiede se è possibile fissare un incontro presso i loro uffici nei giorni successivi. Un appuntamento con il titolare. La casa editrice, una fra le 20 a cui ho mandato il lavoro, ha letto il manoscritto ed è interessata a pubblicarlo, senza contributo economico da parte dell'autore, si affretta a dire l'impiegata. Mi ricordo che mi sono fermato, che ci pensavo e non ci credevo. Avevo la sensazione che qualcosa mi avesse rapito, mi stesse portando in un altro mondo, in un'altra vita. La ragazza al telefono è simpatica e gentile, ricordo ancora la sua voce. Mi chiede quando sarei disposto ad andare a incontrarli a Bologna. Io prendo un po' di tempo, giusto il necessario per rientrare in ufficio e consultare l'agenda, e subito fisso l'appuntamento per il martedì successivo, il 19. Avrei parlato con l'editore e se lo ritenevo opportuno avrei potuto firmare il contratto. Ho cominciato all'elementari per passione e non ho mai smesso di fatto. C'è stato il momento in cui ho pensato che qualcuno addetto ai lavori avrebbe potuto leggere quello che avevo scritto e pensare che magari poteva essere degno di pubblicazione. Torno a casa, racconto tutto a una mia amica che tanto mi aveva sostenuto in questa avventura editoriale. Lei poi mi regala una collanina di buon auspicio. Il ciondolino rappresenta una matita minuscola. Il mio primo ferro del mestiere. L'ho indossata e sono andato a Bologna. Ho ascoltato e ho firmato. Oggi il mio libro è uscito, ormai da circa 3 anni, e mi ha consentito di passare dal ruolo di scrittore a quello di autore. Il titolo è Ascolta le mie voci. Ne vado orgoglioso come se fosse un figlio, non mi vergogno a dirlo. Tra qualche mese uscirà il mio secondogenito, perché scrivere ti porta spesso dove tu non sai. Ma si sa, la cosa più importante alla fine è il viaggio, prima ancora che della meta. A parte che ogni tanto è bello fare pubblicità disinteressata a qualcuno. E quindi ricordiamo a tutti quelli che ascoltano che il libro di Emanuele Cislaghi si chiama Ascolta le mie voci e lo trovate probabilmente nelle migliori librerie. E questa storia però mi ha particolarmente colpito, quella di Emanuele, per 2 motivi principalmente. Il primo è che lui, Emanuele, a cui a questo punto ricordo comunque che almeno una birra ce la deve, dice che non si vergogna a dire che è orgoglioso di quello che fa. È una cosa semplice e che molti magari danno per scontato. E invece non è così. Io conosco un sacco di persone che fanno delle cose bellissime e poi magari non te lo dicono perché pensano di passare per quelli che si bullano inutilmente. Mi ha ricordato di un mio amico che una volta uscito il suo libro passava le giornate a entrare in tutte le librerie che incontrava sulla strada per controllare se avessero il suo romanzo. E quando lo trovava, lo posizionava disinvolto, in bella vista, in modo da renderlo più visibile a tutti quelli che entravano. Io credo che un po' si faccia così, se ne ha il coraggio. Certo, c'è un limite, e non bisogna fare la figura di quelli che sono bravi solo loro. Se però siete riusciti a coronare un sogno, è anche giusto prendersi delle soddisfazioni. E questo è un motivo per cui questa storia mi è piaciuta. La seconda invece è che una telefonata del genere, cioè una telefonata come quella che ha ricevuto Emanuele, l'hanno ricevuta un po' tutti. O almeno, secondo me una telefonata del genere dovrebbero riceverla tutti. E se non vi è ancora arrivata, arriverà, tranquilli. Non c'è un modo diverso per dirlo, nel senso che è una telefonata. Una telefonata, una mail, una comunicazione, quello che volete. Qualcosa che ti cambia la vita. Ma qui la vedo così. C'è un secondo, un attimo, in cui senti, quasi vedi, che sulla linea della tua vita si è formato come un pallino. C'è questo pallino e da una parte c'è il prima, quello che è successo fino a quel momento, e da lì in avanti invece c'è il futuro, che ok, c'è sempre stato il futuro, però in quel preciso momento ha assunto tratti diversi e tu, da questa nuova posizione privilegiata, lo riconosci un po' meglio. E qui mi ricordo perfettamente quando ho visto quel pallino. E non so perché, ma lo associo a un rumore. Lo associo a un rumore di un cancello che si chiude. Un clac. È andata così. Io lavoravo quando ero un ragazzo, quando ero giovane direi, per una radio più piccola, una radio della mia città che si chiama Radio Azzurra. Arrivi lì, scopri che la cosa che ti piace più fare al mondo è quella roba lì. Vai in onda appena puoi, ti diverti, poi a un certo punto finisci, prendi la porta e vai a casa. E quando il portone della radio si chiudeva alle mie spalle, io sentivo sempre quel clac. Poi il giorno dopo ero sempre lì, andavo in onda, facevo tutto quello che volevo, poi a fine giornata, di nuovo, ciao a tutti e clac. Poi mi arriva quella telefonata di cui si parla nel racconto di Emanuele. Mi dicono che mi hanno preso in una radio più grossa di quelle che va in onda e ti ascoltano in tanti, che vuol dire un sacco di cose, che puoi essere orgoglioso di quello che fai, ad esempio, ma anche che devi cambiare lavoro, città, che vuol dire che a un certo punto dovrai salutare gli amici, i parenti che rimangono lì e andare, che vuol dire che devi cambiare abitudini, trovarti una casa nuova dove vivere, insomma, sai che la tua vita sta per cambiare. E siccome è un cambiamento gigantesco, traumatico, non ce la fai ad assimilare tutto in una volta. Poi però c'è quell'istante in cui qualcosa scatta e tutto finisce nella giusta posizione. Allora vai per l'ultima volta in diretta sulla tua piccola radio, fai tutto quello che fai di solito e poi esci. E quando senti il solito rassicurante clac di quella porta, sai che è successo. Ora hai davanti il futuro. Chiedere di aprire il cassetto e tirare fuori il proprio libro è veramente come scoperchiare il vaso di Pandora. Ho quasi paura a leggere alcuni dei messaggi che sono arrivati. Ho scritto, scrive Stefano da Treviso, Dio salvi la regina. Due italiani in vacanza a Londra vogliono rubare le mutande della regina per avere il quarto d'ora di celebrità. Guai, equivoci e disastri con le mogli. La regina li scopre e li invita a cena. Stefano. Alessio, killer psicotico che vuole uccidere le star della TV e soprattutto Maurizio Costanzo. Mai concluso. E ancora, romanzo di fantascienza ucronica. Ma cosa vuol dire ucronica? Tiziano, ti prego. In un prossimo futuro dove è vinta la seconda guerra mondiale, Roma domina nuovamente il Mediterraneo e solo dopo 5 anni di servizio militare, adeguate visite mediche sul patrimonio genetico, si possono avere figli. Tu sei un pazzo con qualche reminiscenza probabilmente che è meglio non ricordare. La mia storia parla delle avventure di un gruppo di studenti di una scuola di magia, maledetta Rowling. Vabbè. Andiamo ad Emanuele. Pronto Emanuele? Ciao Matteo. Ciao, come stai? Tutto bene, tutto bene. Grazie mille per questo spunto magnifico che mi hai dato, perché oltre alla tua storia e al libro, e ti ringrazio per avermi mandato il libro che mi è arrivato, l'hai sentito perché ce l'ho davanti. Sì, infatti, un'idea più precisa insomma di quello che stavamo parlando. Esatto, appunto mi ha dato l'occasione di scoprire questo mondo di cassetti chiusi. Senti, raccontami, per fortuna, raccontami come è andata esattamente quel giorno. Tu sei un assicuratore? Sì, esatto. Ma assicuratore nel senso che fai l'assicurazione, cioè che vendi assicurazioni? Esatto, si fa consulenza, si fa vendita, sì. RC Auto? Anche, sì, certo, ma tutto, non soltanto quello, anzi. Ma adesso sei in ufficio? No, sono a casa perché oggi mi sono preso qualche oretta in più e poi tanto comunque ritorniamo il 27, per cui non è che si faccia molta vacanza. Sul pezzo. Senti, parlami del tuo secondo genito invece, come lo chiami tu? Ma il secondo genito, sì, di fatto è con un editore di Milano che io ho conosciuto per caso, un editore web che di fatto appunto si occupa soprattutto di ebook. Ma la trama qual è, Emanuele? La trama di fatto è un romanzo o racconti? No, non è né un romanzo né racconti veri e propri, nel Come? Senso che sono cos'è? Allora, sono praticamente diverse storie che sono che parlano appunto di, ognuna delle quali parla di una di un personaggio della storia anche attuale che ha compiuto fatti piuttosto gravosi, gravi. Cioè, insomma, per personaggi della storia intendi personaggi storici della storia classe? No, può essere anche, può essere, cioè, assassini, personaggi che hanno compiuto serial killer, cose di questo genere, no? Persone di questo genere che si narrano in prima persona. Cioè, ma è fiction? È fiction? No, no, no, allora i fatti sono assolutamente reali, le persone sono assolutamente reali, di fatto che la cosa un po' particolare è il fatto che io cerco di calarmi nel loro personaggio e li faccio parlare in prima persona. Senti Emanuele, ascolta le mie voci, il tuo primo libro sappiamo com'è andato? Sappiamo. Allora, diciamo questo, che l'ultimo rendiconto, quello di marzo, perché l'editore ogni marzo, ogni anno praticamente mi relaziona, mi aveva parlato di un numero intorno al migliaio di copie. Beh, che è buono direi. Per un piccolo editore è abbastanza buono, sì, considerando che poi non c'è stata neanche una grandissima, come si può promozione. Immaginare, per un piccolo editore, esatto. Certo. Una promozione, io ho fatto una presentazione. Senti, ma contratti come questi si prendono dei soldi oppure? Allora, si prendono dei soldi, sì, nel senso che comunque, almeno nel mio caso, che comunque penso sia un contratto standard, sì, prevede una percentuale appunto sulle vendite. Esatto. Ok. Una percentuale simbolica, perché nel mio caso parliamo del 5% del prezzo di copertina. Ok, okay. Ricordiamo che costa. Ah, mi hai cancellato il prezzo perché era un regalo, quindi non lo riesco a vedere. Emanuele, senti, io ti ringrazio moltissimo, in bocca al lupo per il tuo secondo romanzo. Crepi il lupo, ti ringrazio. Ciao, grazie mille. Voi siete qui. Sono tre, quasi come un regalo di Natale. Sono tre e non una le illustrazioni per il racconto di oggi, che evidentemente ha avuto successo tra gli illustratori dei corsi di illustrazione dello IED del secondo e del terzo anno. Per lo più c'è un telefono raccontato in questi disegni. Un telefono, una matita, una cornetta, delle parole scritte in due di queste illustrazioni. Nell'altra invece c'è un uomo che si apre la camicia e dentro c'è qualcosa che credo abbia a che fare con il fuoco. 349-238-6666. Dei pazzi che hanno dei cassetti pieni di manoscritti. Io ho scritto solo il titolo è Niente più freddo di un bidet. Alex è uno spregiudicato scienziato che ruba la sindone, ne clona il sangue, rinasce Gesù che non è un clone ma un nuovo Gesù, l'ho scritto 2 anni fa, poi ho scoperto che esisteva già un libro uguale. Il connestabile è un mercenario che organizza un golpe per vendetta, ma il finanziatore che speculerà in borsa a causa dell'attacco decide di prenderne il controllo per guadagnare ancora di più. Roberto, no, non c'è. Allora, Dio sa, eccolo qua. La cercavo questo. Prima vi ho letto che Stefano da Treviso ha scritto un romanzo che si chiama Dio salvi la regina, quello di due italiani che vogliono rubare le mutande alla regina. Niente, è diventato un atto unico, mi dice Stefano. Dio salvi la regina è un atto unico, l'ho diretto in teatro con un po' di amici, un grande successo. Olè, però c'è Fabiana che ha scritto un libro. Pronto Fabiana? Sì, buongiorno a tutti. Ciao, come stai? Bene, Fabiana, senti, ho veramente poco tempo, però so che tu mi racconterai in breve la trama del tuo fantasy, giusto? Sì, esatto. Che mi racconti? Quanti anni hai, Fabiana, scusami? 36. Ne dimostri 16 dalla voce. Però sì. Raccontami il tuo romanzo. Allora, Cilla scopre in una sera insieme a sua nonna di essere la fata della neve del mondo di Inverin. No, aspetta, non puoi andare dritta così. È vero che c'è poco tempo, però allora Sheila scopre di essere la regina della neve. Cos'è la regina della neve? La fata della neve. La fata della neve. Sì, la fata della neve di un mondo immaginario per noi, ma per lei esiste. Ok, che sta più o meno in provincia di Brescia, però. Sì. Vabbè, no, niente, scusami. Per cui scopre di essere la fata della neve e... E va in questo mondo dove lei e il principe di Inverin riescono a scoprire come mai le stagioni sono cambiate. E ma è un romanzo New Age? Forse possiamo anche definirlo. Sul cambiamento climatico un po'? Sì. Come si intitola? Il mondo degli stagionali. E lo troviamo dove? Nelle migliori non lo trovate perché non ho ancora trovato qualcuno che lo pubblica, l'ho appena spedito alle case editrici. Va bene Fabiana, facci sapere allora, in bocca al lupo e auguri. Va bene, grazie. Ciao, grazie. Ciao, grazie mille. Mi è arrivato invece sul profilo Facebook del programma un messaggio molto lungo, sono riuscito a tagliarlo. È una storia particolare. Antonio mi scrive: ciao Matteo, rispondo al tuo invito perché la mia infanzia è stata troppo particolare e merita di essere raccontata. Ti dico solo che i miei educatori sono stati degli ergastolani, ma non vado oltre. Il titolo si chiama Santo Stefano di Ventotene, l'isola dei sudditi del demonio. Ero nato da pochi mesi quando ci sono arrivato. Lì ho vissuto per alcuni anni, godendo dell'inquietante bellezza del posto e del grande senso di umanità dei suoi abitanti. Devo subito confessarvi che loro avevano una particolarità. Erano stati tutti condannati all'ergastolo per almeno un omicidio. Conservo ricordi precisi, indelebili, di quel periodo e non riesco proprio a tirarne fuori episodi negativi. Siamo agli inizi degli anni 50, quando a dirigere il penitenziario fu chiamato mio padre, Eugenio Perucatti, che si prese da subito l'impegno di trasformare quel lugubre carcere, definito dal patriota Settembrini la tomba dei vivi, in un istituto di riabilitazione morale. Lassù mancava tutto, dall'energia elettrica alle fogne all'acqua corrente, e spesso d'inverno il maltempo ci isolava dal mondo anche per settimane. 250 i detenuti ospiti, che trascorrevano il loro disperato tempo rinchiusi in celle anguste. Ho avuto la fortuna di passare molti anni della mia infanzia, tra partite di pallone e lezioni scolastiche, con questa gente che ha contribuito ad educarmi, riempiendomi di attenzioni, di affetto, di regali. Soprattutto ho avuto la fortuna di essere testimone, insieme a tanti altri bambini, di qualcosa di straordinario e stupefacente che stava accadendo. La radicale trasformazione dell'ex prigione borbonica a penitenziario modello di autogoverno. Gli ergastolani hanno dato tutto se stessi per dimostrare al loro padre putativo, Eugenio, mio padre, e ai suoi collaboratori che erano degni della fiducia accordatagli. 250 operai che uscivano dalle celle appena dopo l'alba e rientravano al tramonto per offrire alla comunità civile dell'isola tutti quei servizi che in precedenza erano mancati. Il progetto di mio padre era assolutamente trasgressivo. Le leggi di allora non consentivano simili trattamenti, ma i risultati furono del tutto in linea con le aspettative. Qualsiasi ospite era il benvenuto su quello scoglio bruciato dal sole e poteva toccare con mano che razza di comunità ci viveva sopra. Ognuno di loro denotava sempre qualche difficoltà a distinguere i carcerati dai camerieri, ad esempio. Addirittura un colto professore mandò i suoi saluti al vice direttore, che in realtà era un degno testimonial di quel metodo rieducativo. Ergastolano anche egli, ma molto per bene e colto. Ecco, vedi, ho ritenuto di scrivere un libro su questa importante storia di umana redenzione, per dare un contributo di testimonianze molto documentate che mettono in seria discussione la disumana situazione delle carceri di oggi, aggravata dalla tortura del 41 bis e dal ripugnante ergastolo stativo. Ritengo che non esista crimine al mondo che consenta ad uno Stato di dimenticarsi del percorso rieducativo. Qualsiasi criminale ha il diritto di ravvedersi e percorrere la strada della riabilitazione. A maggior ragione tale diritto appartiene a chi sente dentro di sé la dignità di non barattare la propria libertà con quella degli altri. Quando ho letto la storia che vi ho appena raccontato, quella mia, che mi ha scritto Antonio sul profilo Facebook del programma, Margherita si è un po' documentata e abbiamo scoperto che questa storia è molto più grande e più radicata nella storia italiana, direi, e dell'isola di Ventotene e nella storia dell'istituto carcerario. Abbiamo trovato questo articolo che dice: non bisogna dimenticare che Santo Stefano ha rappresentato anche un luogo di sperimentazione di un carcere moderno. Santo Stefano credo sia il paese a Ventotene. La detenzione come rieducazione. Eugenio Perucatti, cioè papà di Antonio, direttore illuminato negli anni 50, 50 rifondò il carcere in senso liberale per ridare ai prigionieri un po' di speranza e umanità. Lo chiamarono il dolce ergastolo. Perucatti diventa un simbolo, fa trascorrere l'infanzia di suo figlio, 12enne, cioè Antonio, tra queste mura, in compagnia di un ergastolano, un detenuto ribelle che diventa modello. L'esperimento di Perucatti viene stoppato dal governo Tambroni, allora come oggi un esempio da cancellare. Il carcere chiude nel 1965. Atterro che sono le 11 di sabato mattina. È metà agosto e c'è un vento. Siccome è Natale domani, no, non domani, dopodomani, è da un po' che la redazione mi diceva: Paolino, Tiziano, dai, facciamo un regalo agli ascoltatori, facciamogli qualcosa che non vada in onda e che possono magari scaricarsi solo nel podcast. E visto che moltissimi di voi da un sacco di tempo mi chiedono: ma com'è finita la tua storia? Com'è che non parli più delle tue cose? Com'è che a luglio ancora non sapevamo come andava la tua vita? La vedo e sono felice. Ecco, allora abbiamo fatto questa cosa, che solo per veramente gli affezionati, solo per quelli che si scaricano i podcast, andate sul sito di Radio 24, alla pagina dei podcast, ma anche su iTunes in abbonamento gratuito, per queste vacanze di Natale, cioè per queste vacanze, per questi due giorni, visto che lunedì siamo in onda, per questo Natale trovate un piccolo podcast che racconta qualcosa della mia vita, di come è proseguita e di che cosa è successo. Grazie a tutti quelli che hanno reso possibile anche questa puntata, grazie a Federico Bernocchi, Tiziano Bonini, Paolino Corleoni e Margherita Ina. Un buon Natale a tutti quanti. La storia di oggi era la storia di Emanuele e parlava di libri nel cassetto. Quella di lunedì è la storia di Emma e parla di regali e di seconde possibilità. E a guardarli oggi quei giocattoli, oggi che sono passati mesi dall'ultima volta che li hai visti, oggi che la situazione economica è difficile, oggi che è Natale e non ti aspettavi proprio niente, la Barbie usata o il vecchio videogioco è come se offrissero anche a te una seconda possibilità.